Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentornati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica, musica e storia. Oggi torniamo nel 1985, che per me è un anno legato a un faccia a faccia con un grande del giornalismo italiano, Enzo Biagi. Era meglio quando i proprietari erano i cosiddetti, diciamo, editori puri, o è meglio adesso che i proprietari sono gruppi economico-finanziari che hanno spesso molti interessi diversi? Mi scusi, ma a me ha fatto sempre ridere la definizione di editore puro. Per me un editore è un signore che stampa dei giornali, dei libri e vuole ricavarci il proprio tornaconto. Sì, ma fa solo quello, diciamo, puro fa in quel senso. Solo quello. Solo in quel senso puro. È relativo, se anche in passato facevano solo quello e non avevano interessi che non sono necessariamente materiali, ma magari politici. Voglio dire che possono essere rispettabili. Quindi non ci sia differenza fra gli editori di prima, diciamo i padroni di prima e i padroni di adesso. Da adesso ce ne sono ancora degli editori puri? No, mi pare di no. Non lo so, questo è... Non so. Bisognerebbe chiedere a quelli che hanno dato questa definizione. Ecco, allora... Adesso c'è l'introduzione di tanti elementi esterni all'editoria, come le aziende di Stato, dentro ai giornali. Allora si ripercuote un fenomeno che è vivo dentro la RAI, solo che nei quotidiani non c'è neanche la risorsa di Sanremo. Cioè la lottizzazione che viene imputata alla RAI c'è ormai anche in parecchi giornali, ecco. E le possibilità di far gol sono molto minori. Senta, ma a proposito dei giornalisti, qual è il miglior giornalista italiano secondo lei? Direi il più bravo per tutto quello che ha fatto è Montanelli. E il secondo? Scalfari. Sono due che sono stati capaci di fare un giornale e non vedo nel panorama italiano altra gente con questa vitalità, questo amore quasi egoistico per il proprio mestiere. Ecco, e tra i giovani ce n'è qualcuno? Ne vede qualcuno di sicuro? Ne vedo parecchi. Mi fa qualche nome? Per esempio Guzzanti di Repubblica. C'è un bravissimo cronista politico sulla Stampa, un resocontista che si chiama... Mauro, ma ne potrei dire almeno 10 con un po' di pazienza. Senta, ma un giovane che volesse fare... Anche lei non se la cava mica male in questo mestiere. Senta, comunque per quanto riguarda la televisione, lei mi pare per 1,5 miliardi e per 3 anni in esclusiva lavorerà per la RAI. Vorrebbe precisare che 1,5 miliardi è lordo e che a me... Lo precisi lei. Sul 1,5 miliardi, se rimango sui 500 milioni che mi danno ogni anno, se ne rimangono a me 150, che è quello che guadagna un buon direttore di banca di un certo rilievo, è già un bel risultato. Perché la RAI, Biagi? Perché mi dà più possibilità, padrone, a proposito di editori puri e di editori non puri, di una televisione privata. Perché essendo tanti padroni ho la speranza che si neutralizzino fra di loro. Senta, ma il denaro per lei quanto conta nella vita? Pochissimo, quel tanto che non mi riporta alle ossessioni della mia giovinezza di bambino povero, con un padre che era il capo dei facchini dello zuccherificio di Bologna, all'ossessione di entrare in un caffè e di non avere i soldi per pagare il bar. Il racconto del 1985 fra storia e musica arriverà tra poco con Franco Schipani e Alessandra Fiori, che insieme a Alessandra Cravetto fanno il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Ciao Ale, come va? Ma senti Cravetto, io ascoltavo Biagi, no, che diceva: ma un certo Mauro, sì, talentuoso, che scriveva sulla Stampa, ma chi è? Ma chi è? È come quando l'avvocato Nelli racconta che una mattina chiama Boniperti e gli dice: Boniperti, c'è un giovane argentino molto promettente da tenere d'occhio. E Boniperti gli dice: avvocato, mi lasci fare il mio lavoro, se era un bravo giocatore me ne sarei già accorto. E chi era? Maradona. Beh, bravo Boniperti, fantastico. Comunque scusa, tu appena puoi torni alle origini e citi l'avvocato. Sì, l'avvocato per me è tutto, tutto. Allora troviamo un avvocato per la Cravetto. Ma no, perché non ci sono più gli avvocati di una volta. Comunque per tornare ai giornali, quello che diceva prima Biagi. Hai letto i giornali? No, ovviamente no, ma infatti bene. Mi ha colpito una cosa, che è una pubblicità. Ecco. Delle opere di San Francesco, che ha beccato un punto secondo me verissimo. Quale? Perché il claim è: siate egoisti, fate del bene. Beh, fortissima. Vero? Se la batte con quella del Fertility Day. Sì, uguale. È vero? È uguale. Spero e credo che abbia sicuramente un altro risultato. Comunque, se ci pensi, hanno tirato fuori un non detto verissimo. Cioè, che tu fai del bene perché prima di tutto lo fai per te, perché ti fa star bene a te. Certo. E infatti tu vuoi dirmi che essere altruisti in fondo può essere un'altra forma di essere egoisti. Sì, sei sempre parecchio complicata. E comunque il punto è: siate voi stessi. Quindi egoisti. Sì, quindi egoisti. E però pensate agli altri. Quindi altruisti. Vabbè, allora senti, tu questa settimana Dimmi. Di un pochino più semplice, che cosa hai letto? Qualcosa che abbia a che fare con una storia egoista o altruista? Guarda, adesso che mi ci fai pensare, tutte e due le cose insieme. Ecco, mi sembrava. Cinzia Sasso ha fatto la giornalista con successo per quasi tutta la vita, finché nel 2011 sposa Giuliano Pisapia, lascia il lavoro e diventa una moglie. O meglio, come racconta nel suo libro Moglie, appunto, la first sciura del sindaco di Milano. Cinzia, tu hai un figlio avuto da un precedente matrimonio ed eri legata a Giuliano Pisapia già da molti anni. Però ognuno stava a casa sua, con il suo lavoro, la sua indipendenza. Ecco, perché decidete di sposarvi? Era come se tutto fosse andato in ordine, perché mio figlio ormai era molto grande, quindi non aveva più bisogno della mamma come prima. E non so in realtà perché è scattato questa cosa del matrimonio, so però esattamente quello che è successo dopo. Ecco, che cosa ha cambiato in te il matrimonio? Io pensavo che non cambiasse niente. Invece ho deciso di scrivere questo libro perché mi sono resa conto che è cambiato tutto. Per la prima volta, non mi era mai successo prima, anche se ero già stata sposata, ero diventata una moglie, ero diventata una persona che aveva voglia di stare al servizio, a disposizione dell'altro. Poco dopo il matrimonio, lui diventa sindaco di Milano e tu decidi di abbandonare il lavoro per diventare appunto moglie. Com'è successo? Il fatto che lui sia diventato il sindaco della città è quello che ha fatto precipitare le cose, insomma, quello che mi ha fatto diventare una moglie, al di là dello stato civile, perché io mi sono resa conto che mentre lui si stava dando, fare il sindaco è uno dei lavori più faticosi al mondo, perché non stacchi mai, perché hai sulle spalle la responsabilità di una città. Immaginate, pensate adesso ai sindaci dei paesi del terremoto, cioè veramente non riesci a staccare un attimo. E quindi Giuliano aveva sulle sue spalle una grandissima responsabilità, aveva già compiuto un'opera straordinaria, perché aveva vinto le elezioni dopo 20 anni, mentre invece governava l'altra parte politica, e quindi io ho pensato che la nobiltà, se vuoi, di questo lavoro meritasse anche il fatto che io fossi al suo servizio. E com'è stato, scusa, passare dai tuoi impegni quotidiani a quelli di tuo marito? Effettivamente è stato molto faticoso. Io per 36 anni tutte le mattine hai lavorato? Uscivo, andavo al giornale, certo. Oppure partivo per un servizio, insomma ero abituata ad avere io una vita molto piena, ed effettivamente invece questi anni io la riempivo con i suoi impegni. Però è qualcosa che veramente mi ha sconvolto, mi ha arricchito moltissimo, mi ha fatto pensare che forse bisogna rivedere molte cose. Il fatto che l'amore o una relazione fra due persone che si stimano, che si vogliono bene, sia anche un condividere di più, è qualcosa di molto importante. Io credo che a noi ci abbia unito ancora di più. Ecco, però tuo marito, che comunque era abituato a una compagna impegnata e molto orgogliosa della sua professione, ecco, lui come ha preso il tuo cambiamento? È vero che per tutta la vita lui è abituato che io fossi, del resto come ero abituata io ero una giornalista, dal giorno dopo io sono diventata più nessuno, una moglie. Però io vorrei chiedervi di immaginare una scena. Voi immaginate il ritorno a casa di uno che fa un lavoro molto impegnativo, tipo che fa il sindaco di Milano o di un'altra grande città. Torna a casa e anche se dovesse avere degli aiuti straordinari, ma è da solo, immaginate, io non so, a me viene una sensazione di freddo solo a raccontarlo. Ecco, quindi questa cosa che quando lui apriva la porta, trovava invece me, che lo aspettavo, che avevo voglia di di ascoltarlo se aveva voglia di parlare, oppure di stare zitta con lui se non aveva voglia di parlare perché aveva parlato anche troppo, e gli preparavo una cosa che gli piaceva, nel suo caso era un Negroni, che così lo aiutava a staccare quei pensieri. Beh, è una scena che ti dà tutta un'altra sensazione di calore. Tu ti sei potuta concedere forse questa libertà perché avevi lavorato 36 anni e perché avevi raggiunto quello che sentivi di voler raggiungere? Sicuramente questo è un elemento. Io non lo so se questa vicenda mi fosse capitata quando ero nel pieno o all'inizio del mio lavoro, della mia carriera, non lo so onestamente come avrei scelto. Quello che so di certo è che questa scelta che ho fatto, per tutte le ragioni che abbiamo detto, anche perché ero una professionista molto matura, mi ha dato moltissimo e mi ha fatto veramente scoprire un mondo e mi ha fatto venire voglia di chiedere, così, a chi lo legge, di riflettere anche sul nostro modo proprio di vedere la vita. Ha più senso immaginare l'amore anche come sacrificio, come condivisione, come star vicino a qualcuno, sia uomo che donna, non che per forza lo debba fare sempre una donna, o ha più senso per ognuno di noi rincorrere solo i propri obiettivi, le proprie ambizioni, il proprio successo? Tu infatti parli nel libro del passaggio dall'io al noi, ma in concreto noi è sapersi fare da parte a turno o cos'altro? Io quello che mi auguro è che sia possibile farsi da parte a turno. Cioè, io penso veramente che sia molto difficile andare avanti per tutta la vita correndo, essendo una coppia e correndo su due autostrade parallele. È molto più bello farla insieme, un pezzo di strada, essere sulla stessa automobile e farla insieme. Certo, l'autista non deve essere sempre uno, bisogna cambiare il turno di guardia. Da giornalista, tu per oltre 20 anni hai anche intervistato donne di successo. Quante di loro erano mogli in questo modo? Io ho trovato moltissime donne, questa è una cosa che mi piace molto, che sono riuscite nel loro privato, essendo loro donne che avevano professioni importanti, ruoli di comando, comunque molto impegnativi, hanno avuto vicino un marito che era stato capace di fare quello che ho fatto io con mio marito, e cioè di mettersi lui al loro servizio, di occuparsi per esempio totalmente dei figli, che come sappiamo invece è una questione che rimane sulle spalle delle donne, di cambiare città per esempio, se loro avevano bisogno di cambiare città per questioni professionali. E questo rimescolamento, questo cambiamento dei ruoli è qualcosa che io vedo con grandissima fiducia che possa succedere. Adesso tu sei la moglie dell'ex sindaco di Milano. Il noi adesso a che punto è? Dov'è? Allora, il noi, per esempio questa sera sto andando a registrare una trasmissione televisiva e naturalmente mio marito mi accompagna, come ho fatto io per 5 anni con lui. Cinzia Sasso, moglie UTET. Ale, quindi lei ha lasciato il lavoro per fare la moglie, però ha detto che ci sono anche alcuni uomini che lasciano il lavoro per seguire la famiglia, per fare i papà. Ma se mogli e mariti si dedicano alla famiglia, ma alla fine, ma chi è che lavora? No, perché è un punto. Ma certo che è un punto, ma è lavora chi non si può permettere di smettere. E no? Poi è un'altra cosa che non ho capito. Ma dimmi. Lei stava a casa ad aspettarlo con un negrone? No. No, Ale, con un Negroni. Il cocktail. Ah. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Monia Zalini, ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia, insieme a Luisella Seviso e Giovanna Pizzuoli dell'Associazione di Giornaliste Giulia e con il supporto della Fondazione Bracco e la Commissione Europa, hanno creato 100 donne contro gli stereotipi, un sito a disposizione dei media e dei giornalisti dove si possono trovare i curricula delle prime 100 esperte in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Monia, avete chiamato questa piattaforma 100 donne contro gli stereotipi, ma qual è lo stereotipo? È quello riflesso dai media, per cui le donne sono molto meno degli uomini, mentre la popolazione di tutti i paesi di questo mondo è composta per la metà circa da uomini e da donne. Poi se poi andiamo a vedere profili delle donne e degli uomini che sono presenti sui media, sono profili molto diversi, molto più autorevoli, prestigiosi quelli degli uomini che non quelli delle donne. Quindi a parità di titoli la percentuale di uomini esperti che vengono interpellati dai media qual è? secondo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, 81% di uomini a livello globale, 82% di uomini a livello nazionale. In pratica 8 su 10 sono uomini. Esatto. Quindi le donne non vengono proprio interpellate o non viene riconosciuta alle donne, diciamo, un titolo di esperta? Le donne vengono interpellate, comunque in generale meno degli uomini, ma vengono interpellate per lo più come vox populi, mentre non viene riconosciuto alle donne il ruolo di portatrice di expertise, in grado di spiegare un tema, un evento, un argomento e di fornire anche una chiave interpretativa. Nel caso delle cosiddette STEM, cioè le scienze dure, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, la percentuale delle donne invece a che numero arriva? Qui abbiamo sempre il dato a livello internazionale 10%. Quindi diminuisce ulteriormente. Perché? Sì, probabilmente perché sono delle ipotesi da fare, come dire, l'expertise in questo ambito, che è per lungo tempo stato dominato dalla presenza maschile, l'expertise declinata femminile non è ancora riconosciuta. Sul sito www.100esperte.it chi sono le donne che avete selezionato? Sono donne di merito e talento, detto in due parole, e che poi ovviamente hanno accettato di mettere a disposizione il loro indirizzo mail per essere contattate, interpellate dai media. Abbiamo scelto sia accademiche, sia scienziate che lavorano presso istituti o enti pubblici e privati, e anche scienziate che lavorano in aziende perché hanno inventato, brevettato qualcosa di innovativo, comunque anche nel campo dell'industria. Questo porta a sfatare un altro pregiudizio, quello che le donne non sarebbero portate per le materie scientifiche. Ma secondo lei ci sono degli ambiti in cui obiettivamente l'essere donne o uomini cambia qualcosa? Gli uomini e le donne hanno sicuramente una storia diversa alle spalle. Quindi portano anche competenze e come dire, culture diverse, ma proprio per questo rispetto alla loro presenza nei media, le donne che per molti anni sono state marginalizzate, dare spazio alle donne nei media significa dare spazio a prospettive e a visioni anche magari innovative o comunque diverse rispetto a quelle che da anni sentiamo. Io non voglio citare nomi e cognomi, però abbiamo psicologhi, critici d'arte resi famosi proprio dalla loro esposizione mediatica, che crea poi un circolo virtuoso o vizioso a seconda dei punti di vista. Quindi voi volete dimostrare che le donne ci sono e come, ma non vengono interpellate nel modo giusto. Dare loro lo spazio che viene dato anche agli uomini, o come dire, ridistribuirlo, riequilibrarlo, ripeto, è anche una occasione di opportunità per i media. Togliere di mezzo l'alibi che spesso volte circola nelle redazioni, ma noi l'esperta non la troviamo. Ecco, noi vogliamo togliere di mezzo questo alibi dando una banca dati dove segnaliamo nomi di esperti. Dopo le prime 100 esperte in campo scientifico che avete pubblicato sul sito, quale altro ambito andrete ad analizzare? Nel settore dell'arte, della cultura, delle scienze umane, economiche, sociali, giuridiche e tutto quello che è, diciamo, lo scibile umano, non tuttissimo, ma quantomeno quello che è rilevante per un discorso pubblico come quello che troviamo veicolato dai media. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Ti ricordi quando abbiamo deciso di fare il film della salsiccia e non ci ricordavamo il nome? No, lei non se lo ricordava, era Sausage Party, vita segreta di una salsiccia. Sì, ma ti ricordi che non veniva in mente neanche a te? E allora? Ho sbagliato salsiccia. Ma che dice, Donatella? Ma che vuol dire? Ma quante salsicce ci sono? Due! Ma tu? Ce n'erano due. Infatti, quando sono andata al cinema, sono andata a vedere la salsiccia sbagliata. Hai capito? No, non ho capito. Sono entrata in questa sala e ho capito che non era un cartone animato. Poi ho capito che non era per bambini. E poi però mi ha interessato tantissimo. Io mi sono sempre sognato il diavolo, me lo sono sognato da bambino dicendo: se tu mi rendi famoso, un giorno te ricambierò. Hai capito? Ho capito. Un documentario film sul porno attore più famoso di tutti, Rocco. Pensa che racconta la storia di questo signore, che secondo me tu conosci benissimo. Madonna della va bene, e allora? E comunque, ecco, che lui è partito da un paese dell'Abruzzo, e è diventato famosissimo, ed è arrivato a fare film in tutto il mondo, e poi, con la sua bravura, ha vinto anche un sacco di premi. Hai capito? Ho capito. Grazie al... Appunto. Donatella, ho capito, mi vuole dire... Vabbè, voglio parlare della sua bravura, che solo gli attori dei film Due Palle possono essere bravi. Pensa che lui, e qui c'è in una scena molto importante di un film, acchiappa un'attrice all'improvviso e le fa una cosa che io non... Donatella, io ho mai capito, per lei è bravissimo, questo è molto chiaro. Sì, ecco, sì. È bravissimo. Adesso ci vuole parlare un pochino del cast, per cortesia? Allora, sì, il film è di due tizi, penso francesi, però non mi sembra una cosa importante, perché tanto fa tutto Rocco. Vabbè, Donatella, capito? Il suo è un amore vero e proprio. Sì, un po' sì. Bene, senta, ma vale la pena quindi vedere questo film? Certo, ma tantissimo. Pensa che poi io mi sono informata, un po' sono andata a vedere un po' su questo Rocco, che c'è pure un seguito con i suoi fratelli, è Rocco e i suoi fratelli. No, Donatella, mi scusi, Rocco e i suoi fratelli è proprio un'altra storia, è un'altra cosa, però grazie Donatella. Io credo, prego, ma secondo te pure i suoi fratelli sono così bravi? E con UM è arrivato anche il biondissimo Franco Schipani. Ciao, ciao Franco. Ale, ciao Ale. Ciao biondo. Ale, ciao. Che hai fatto? Macchinetta numero 4, zero, look Franco... originale Frank Schipani. Franco Splendido. Schipani si è rapato. Senti, ma io questo in studio ho sentito che parlavate di drinks, di negroni, parlavate di San Francesco. Di avvocati. A un certo punto anche di avvocati. Sì, di l'avvocato. Lei parlava di avvocati. Ah, no, ho capito. Di matrimoni, di unioni, di coppie. No, per carità, guarda, ti dico una cosa. Il mio Dimmi. Avvocato newyorkese, al terzo divorzio, mi disse: caro Schipani, allora ti dirò l'unica cosa che ho imparato in 40 anni di avvocato divorzista. Cosa? Sei pronto? Pronti. Allora, le donne o le paghi prima, o le paghi durante, o le paghi dopo, le paghi sempre. Dico: ma Fred, ma me lo puoi dire al primo matrimonio? Me lo dici al terzo? Cioè, infatti adesso sei single. Assolutamente, sono l'unico uomo, penso, che abbia una mappa aggiornata di tutti i supermercati dove vendono le confezioni da singolo, e guido anche una Smart, e se trovo una Smart a un posto me la compro. Ah, non male, non la male, Smart Franco. A un posto, se qualcuno ha una Smart a un posto la compro. La faremo per te, chiederemo di farla per te, Franco. Assolutamente. Assolutamente. Vi saluto, ragazzi, visto che Franco vuol star solo, o perlomeno sì, con vengo te. Anch'io. Franco, andiamo nel 1985 insieme? Sei pronto? 1985. E allora ci sentiamo subito dopo la pubblicità con il 1985. Ciao!